Letture di Radio 24. In un momento così difficile per il nostro paese, la Presidente della Camera non trova niente di meglio da fare che avviare le procedure per declinare al femminile le cariche di tutte le dipendenti di Montecitorio. In un paese come il nostro, dove mediamente ogni 3 giorni una donna viene uccisa, dove la maggior parte degli stupratori non finisce in carcere se non per qualche giorno, spesso solo ai domiciliari, la Boldrini torna alla carica con le sue ossessioni sulla grammatica italiana da modificare a colpi di decreto. E come già accaduto in passato, le prime a ribellarsi sono proprio le donne. Le più infastidite sono le donne segretario parlamentare che si sono battute a lungo in passato per liberarsi di quella A, un tempo ritenuta discriminatoria. Lo ricorda la missiva che i sindacati hanno inviato a Laura Boldrini e al segretario generale Laura Pagano, destinata fra pochi giorni a diventare segretaria generale. Non appare superfluo ricordare che la denominazione al maschile del termine scaturisce da rivendicazioni sindacali volte a superare una concezione riduttiva di una professionalità che fino ad allora veniva associata alla funzione di persona tuttofare. Una segretaria parlamentare che preferisce restare anonima spiega l'umore di tante colleghe. Ci sembra un passo indietro che non tiene conto dei progressi della società. È una decisione solo formale, mentre è la sostanza che conta. La polemica non è nuova, visto che la presidente Boldrini, o presidenta, tempo fa chiese che la declinazione al femminile fosse usata in tutte le lettere ufficiali della Camera. Ed è stata sempre la terza carica dello Stato a sfidare Virginia Raggi e Chiara Appendino perché accogliessero di buon grado il nome di sindaca. «Evitiamo boldrinate, fatevi chiamare sindaco!» le spronò la grillina Roberta Lombardi e la presidente della Camera. «Non è una boldrinata, si dice sindaca. È una questione grammaticale e culturale». Nelle stanze ovattate della Camera, dove si parla a voce bassa e si cammina in punta di piedi, i sindacalisti fanno notare che la Boldrini avrebbe evitato di modificare il regolamento dei servizi e del personale per non dover passare al vaglio dell'ufficio di presidenza, dove il braccio di ferro con il Movimento 5 Stelle sarebbe forse stato inevitabile. Nella certezza che tale provvedimento non trovi il consenso di molte colleghe, i rappresentanti di QIP, OSA, SPI e Sindacato Autonomo chiariscono di non essere contro la parità, ma chiedono una verifica della volontà delle dipendenti. Il rispetto della parità di genere non può comportare l'imposizione della declinazione al femminile della professionalità in presenza di una diversa volontà della lavoratrice. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Monica Guerzoni, Linguaggio di genere alla Camera, polemiche per le regole della Boldrini, dal Corriere della Sera dell'8 dicembre. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Letture di Radio 24. L'inaspettata vittoria di Trump alle recenti elezioni ha dimostrato che molti americani, e non soltanto loro, preferiscono il politicamente scorretto al politicamente corretto portato agli estremi, perché quello che era nato come uno strumento per ridurre i conflitti derivati dalle ineguaglianze si è alla fine rivelato come una fonte primaria di conflitto. In principio, il politicamente corretto non era mica una brutta idea. Davvero. Le società occidentali sono diventate tremendamente complesse e non c'è niente di meglio che una sana disciplina del linguaggio per arginare l'insorgere dei conflitti. È il grande insegnamento delle guerre di religione del Cinquecento. Ci sono gesti e parole che vanno lasciati fuori dallo spazio pubblico. 5 secoli più tardi le cose hanno iniziato a degenerare e il politicamente corretto è diventato un incubo. Non soltanto delimita degli spazi in cui sembra ormai impossibile dire alcunché, ma per giunta fallisce nella sua funzione primaria. Invece di pacificare, fornisce nuovi e infiniti pretesti di conflitto. individuando vittime a tutti i livelli, postulando aggressioni e microaggressioni dietro ogni scambio comunicativo, il politicamente corretto ha finito per diventare una teoria della guerra giusta alla portata di chiunque. A chi conviene questo conflitto permanente? È presto detto. Alla classe sociale, chiamata ad amministrarlo. La vittoria dello scorrettissimo Donald Trump, vera e propria rivincita dei bianchi declassati, segnala tuttavia la fragilità di questo modello di integrazione. Gli americani, che hanno conosciuto la guerra civile in tempi più recenti, non hanno dimenticato alcuni accorgimenti pragmatici. Caso esemplare, ai tempi del massacro alla redazione di Charlie Hebdo, i grandi media ritennero di non pubblicare le famigerate vignette. Fu una scelta tecnicamente laica, se con laicità intendiamo l'esclusione del divino, per quanto in forma di bestemmia, dallo spazio pubblico. Fu anche, senza dubbio, una scelta politicamente corretta che teneva conto della sensibilità di una parte del pubblico americano. Alcuni intellettuali, tra i quali Salman Rushdie, ne contestarono la vigliaccheria. Altri invece salutarono in quella prudenza l'eredità del genio politico di Abraham Lincoln o l'influsso del know-how coloniale di matrice britannica. C'era anche un'influenza più recente, quella dei dibattiti sul multiculturalismo prodotti nel trentennio precedente in seno al mondo universitario e alla blogosfera liberal, dove erano appunto stati teorizzati i concetti di safe space e di trigger warning. In pratica, l'idea che le minoranze devono essere messe al riparo da tutto ciò che rischia di offenderle o provocarle. Il problema è che l'elenco dei trigger, cioè grilletti, è soggettivo e potenzialmente infinito. E nel momento in cui si decide di rendere safe la stampa o l'università, si mette in crisi la loro capacità di trasmettere ed elaborare il sapere. È il dilemma del politicamente corretto, che a forza di ellissi e di eufemismi rischia di restituirci un racconto della realtà totalmente privo di senso. Fino a che punto è possibile restare neutrali? È scontato che un insulto a sfondo razziale, religioso o sessista possa triggerare una reazione. Ma che dire invece di una banale gaffe come chiedere a una persona dai tratti orientali se sia nata all'estero? Nelle guide distribuite agli studenti nelle università americane, questo comportamento viene esplicitamente condannato. Non si parla di gaffe, ma di microaggressione. Il mondo del politicamente corretto è popolato da potenziali vittime che chiedono riconoscimento, rivalsa, riparazione. Ma sono davvero queste le basi in grado di tenere assieme la società multiculturale? Quando nel 1988 la Black Student Union riuscì a ottenere la cancellazione della lista di letture obbligatorie del primo anno all'Università di Stanford, giudicata razzista in quanto includeva solo maschi bianchi presuntamente eterosessuali, tra le opere espulse dal curriculum c'era anche Il Principe di Niccolò Machiavelli. Un vero peccato, perché proprio in quel testo era stata formulata forse per la prima volta la ratio di quel sistema della tolleranza su cui si reggono le nostre società, ovvero il principio dell'autonomia del politico. Secondo il segretario fiorentino, il principe deve essere in un certo senso amorale, ovvero al di sopra della morale, per essere al di sopra delle fazioni. Il secolo delle guerre di religione insegnerà inoltre che se il sovrano vuole garantire la pace, deve arginare ogni tentativo delle diverse fazioni di moralizzarsi a vicenda, proteggendo lo spazio pubblico dalle ingerenze delle varie fazioni. «Gli uomini», scriveva Machiavelli, «offendono o per paura o per odio. Non c'è modo di mantenere la coesione del corpo sociale se non si spezza la spirale del risentimento. Ecco in fondo il paradosso. Lo spazio pubblico deve essere neutrale, ma non è il luogo in cui affrontarsi per stabilire ciò che deve essere neutrale, a meno di non voler vivere in uno stato di guerra permanente». Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Raffaele Alberto Ventura, Il politicamente da correggere, dal numero di dicembre del magazine Il. In Germania l'aggressione a una ragazza nella metro di Berlino da parte di un gruppo di immigrati bulgari scatena l'indignazione in tutto il paese. Qualcuno offre una taglia per catturare gli aggressori e sui social si invita al linciaggio. A un anno dalla politica delle porte aperte e dall'ondata di solidarietà che aveva accompagnato l'arrivo di quasi un milione di rifugiati, la Germania si trova a fare i conti con un video che ha provocato forte indignazione ed è sfociato sui social network in commenti razzisti e toni da linciaggio. La scena è stata registrata da una telecamera di sicurezza intorno a 00:20 del 27 ottobre nella stazione della metro Hermannstrasse a Berlino. Un ragazzo colpisce alle spalle con un calcio una ragazza che sta scendendo le scale. La giovane di 26 anni cade rovinosamente in avanti, si rompe un braccio e viene soccorsa da alcuni viaggiatori, mentre l'aggressore e altre tre persone che lo accompagnano si allontanano come se niente fosse. Le immagini del brutale gesto sono state diffuse dalla polizia nei giorni scorsi su ordine della procura. La pubblicazione del filmato, accompagnata dalle critiche sul ritardo con cui le forze dell'ordine lo hanno reso noto, ha suscitato un'ondata di sdegno in tutta la Germania e ha spinto imprenditori, politici, cantanti o semplici cittadini a promettere una ricompensa a chi fosse stato in grado di fornire informazioni utili ad acciuffare il colpevole. Michael Kurr, un ex kickboxer che ha lavorato come guardia del corpo per star del calibro di Lady Gaga e Leonardo DiCaprio, ha annunciato ad esempio su Facebook una taglia di 2.000 euro per il nome e l'indirizzo di questo bastardo. Promesse di ricompense sono arrivate anche dal cantante tedesco Günther Gabriel, che ha messo sul piatto 5.000 euro, dal deputato berlinese della AfD Andreas Wild 1.000 euro e da un imprenditore privato anonimo 5.000 euro. Azioni che hanno acceso ancora di più i riflettori sul caso, fino alla svolta in cui la polizia e la procura sono riuscite a identificare l'aggressore, che non è stato però ancora arrestato. Gli agenti non l'hanno trovato a casa nel momento in cui si sono presentati all'indirizzo presso il quale è registrato a Berlino. L'uomo sarebbe fuggito all'estero, probabilmente nel suo paese d'origine, la Bulgaria, scrivono i quotidiani Bild e Beze. Una possibile reazione all'arresto lunedì di uno dei quattro componenti del gruppo ripreso nel video. I quattro sarebbero tutti imparentati tra loro. Prima che emergessero dettagli sulle origini bulgare dell'aggressore, il clima da caccia all'uomo era degenerato su Facebook, Twitter e YouTube, in commenti xenofobi e islamofobi, basati tutti sull'aspetto esteriore dell'aggressore. «Via gli stranieri», aveva scritto qualcuno già domenica sulla pagina Facebook dell'ex bodyguard Kurr. «Bisognerebbe espellerli subito dalla Germania», ha annotato un lettore sulla pagina Facebook della Berliner Morgenpost, e un altro aveva aggiunto: «Spero ora che i nostri musulmani mostrino finalmente coraggio, dimostrino grazie a questo crimine che sono migliori della loro fama e partecipino alla ricerca». E quello che avete ascoltato era l'articolo di Alessandro Alviani, «Aggressione nella metro di Berlino e la Germania si scopre xenofoba», dalla Stampa del 15 dicembre. Non ci sono solo i turisti che fanno il bagno nelle fontane storiche. L'Italia è ormai un paese dove ognuno può fare il comodo suo per strada. Questo è il commento di Aldo Cazzullo in un editoriale pubblicato sul Magazine 7. Arrivo a Milano, trovo la stazione centrale affollatissima e come quasi sempre c'è la fila dei passeggeri in attesa del taxi e non la fila dei taxi in attesa dei passeggeri. Decido di andare a piedi e intanto penso che la capitale del nord è in salute, è in ripresa, è dinamica. La prospettiva razionalista di via Pisani e piazza della Repubblica non invecchia mai. Sullo sfondo si affacciano i nuovi grattacieli, hanno aperto molti nuovi locali. Immerso in pensieri consolatori, passo accanto a un nero che sta urinando nei giardini di fronte alla stazione. Così, in pieno giorno, come se nulla fosse, anche se il passaggio è continuo, uomini e donne. Penso a dove ho visto in giro per il mondo una scena simile. Mai, da nessuna parte. Tranne una volta, una sera, a Parigi, alle Halles. È arrivata la polizia, ha pestato il malcapitato tipo vendemmia e l'ha portato in questura, dove non oso pensare che trattamento abbia ricevuto. È una cosa orribile. Detesto la violenza. Resta il fatto che nelle grandi città internazionali non è possibile urinare per strada, mendicare in modo aggressivo, molestare i passanti e in particolare le donne sole, lavare i vetri ai semafori, importunare le persone che stanno mangiando o prendendo un caffè. L'Italia, come è noto, allenta i freni inibitori. È un paese che non rispetta se stesso. Perché dovrebbero rispettarlo gli stranieri? A questo si aggiunge un dato oggettivo. Nessun paese può reggere un flusso come quello cui è sottoposta l'Italia da anni. Un flusso su cui non esercitiamo alcun controllo. Il paragone con gli italiani che andavano in America è del tutto improprio. L'immigrazione che ha costruito gli Stati Uniti, un continente in gran parte deserto e ancora oggi semipopolato, con una densità di 34 abitanti per chilometro quadrato contro i 201 dell'Italia, era regolata in modo ferreo, con tanto di quarantene e respingimenti. L'idea che la miseria dell'Africa possa essere risolta dalla rotta di Lampedusa è delirante e ipocrita nello stesso tempo. Prima facevamo finta di niente e i 500 migranti al giorno, quest'anno di più, finivano in Germania, in Francia, in Svezia. Adesso, con le frontiere quasi chiuse, restano in Italia. E quelli che vengono portati in Sardegna si ribellano quando realizzano che sono su un'isola da cui sarà difficile andarsene. Quali prospettive hanno? Per tante storie di solidarietà, integrazione, accoglienza, quante storie di emarginazione, disperazione, rabbia stiamo preparando? Non si tratta di perbenismo, ma di civiltà, decoro, dignità, rispetto per gli altri e per se stessi. È piccolo borghese guardare a queste piccolezze nel pieno di una tragedia dell'umanità? Sì e no. I profughi vanno accolti, le vite vanno salvate, ma la grande maggioranza profughi non sono. Attenzione, perché in questo modo, tollerando tutto e non vietando nulla, stiamo facendo dell'Italia un paese razzista. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'editoriale di Aldo Cazzullo, Metropoli sfregiate, dal magazine 7 del 9 dicembre. Il bene non si commenta, si racconta. C'è questa giovane operaia di Marostica con una bimba di 6 anni colpita da una malattia degenerativa. Per accudirla servono tanti soldi e tanto tempo. L'operaia esaurisce prima i soldi e poi il tempo. Tutto il monteferie è accumulato. Ricorre al congedo previsto dalla legge 104, ma domani scadrebbe anche quello e non le resta che rinunciare allo stipendio mettendosi in aspettativa. Si trascina dal capo del personale a comunicargli la sua scelta obbligata, ma si sente rispondere che può tornare tranquillamente al capezzale della figlia. I colleghi hanno raccolto 198 giorni di ferie e li hanno infiocchettati per lei. Sotto l'albero le faranno trovare quanto possiedono di più prezioso, il loro tempo. Quando ero piccolo, mia nonna diceva che gli unici regali che valgono sono quelli in cui il donatore rinuncia a qualcosa di suo. Mi sembrava una predica da vecchi. Ora non più. Forse sto diventando vecchio anch'io. Ciascuno ha contribuito alla colletta in base alle proprie possibilità. I neoassunti, regalando qualche ora. I più anziani, addirittura una settimana. L'aspetto più straordinario di una storia già così poco ordinaria di suo è che l'azienda in cui lavora quell'operaia è piuttosto grande e molti di coloro che hanno rinunciato alle ferie conoscevano la beneficiata soltanto di sfuggita. Alcuni non la conoscevano proprio. Perché lo hanno fatto allora? Il bene non si commenta, si racconta, almeno ogni tanto, per ricordarsi che c'è. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Massimo Gramellini, Colleghi di Natale, dalla stampa del 14 dicembre.